piano. Di Enrico Ruggeri. Questa è una storia di musica, ma è anche una storia difficile. È una storia di un artista il cui arrivo sulla scena ha segnato un prima e un dopo. È un uomo con un talento enorme che è andato di pari passo con una vita difficile, con una compagna terribile, cioè l'eroina. È un uomo che però è stato capace di vincere la sua battaglia, di sopravvivere all'eroina, di regalare capolavori che hanno fatto la storia del grande jazz. Siamo nel 1957 in un jazz club di Philadelphia, il Red Rooster, 52esima strada. Sul palco ci sono Jimmy Garrison, John Coles e McCoy Tyner, quindi tre grandi, e poi c'è un quarto, un nero che non si regge in piedi. È stordito, cerca di suonare il suo sax alla meno peggio, ma sbaglia, è fuori tempo, e non è all'altezza degli altri, non è all'altezza di se stessi, non è all'altezza del pezzo che sta suonando. Il suo nome è John Coltrane. Il pubblico, i componenti del gruppo lo stanno guardando, sono increduli. Un concerto, se così si può chiamare, va avanti per mezz'ora tra i fischi, tra il dissenso, con la gente che abbandona il club. Poi il trombettista Johnny Coles decide di interrompere la serata, porta via dal palco quest'uomo che è ormai in uno stato di delirio. Quest'uomo è uno dei più grandi musicisti che ci siano mai stati sulla faccia della terra. È un sassofonista che ha rivoluzionato il concetto di jazz insieme al suo quartetto fantastico con Garrison e Tyner, che erano gli stessi presenti in quella terribile serata al Red Rooster. Insomma, questo era John Coltrane. Le parole della cugina Mary riguardo a quella tragica serata sono queste. John suonava in un locale e una sera mi chiamarono dicendomi: Mary, dovresti venire. John si comporta in modo strano, sembra che suoni come un bambino di 6 anni, come se non avesse mai visto un sax in vita sua. Fu allora che decise di disintossicarsi. La droga in questione è l'eroina, è la condanna di una intera generazione di jazzisti che hanno vissuto a tutta velocità, che se ne sono andati prestissimo, e il cosiddetto old jazz lifestyle ha riguardato tutti i più grandi: Charlie Parker, Miles Davis, Thelonious Monk, Chet Baker, di cui abbiamo già parlato. Insomma, l'eroina, che non era tanto un modo per alterare i sensi, era una scelta contro una società dominante, un modo per sentirsi una comunità, un rifugio, un ritorno nella placenta. Gli anni 50 erano gli anni di Eisenhower, gli anni della guerra fredda, della segregazione razziale, quindi anni difficili per la popolazione nera, soprattutto nel profondo sud degli Stati Uniti. John Coltrane l'eroina la incontra presto, e nonostante l'amore di tante persone attorno a lui, lui non riesce a farne a meno per molto tempo. E le persone attorno a lui sono tante, sono intanto le donne della sua famiglia, le donne di casa, lo ricorda sempre la cugina Mary. Era in una casa piena di donne, giusto? Sì, gli volevamo bene. Ed ho sempre detto che è per questo che è stato un genio, perché è stato cresciuto da donne, solo da donne. Tra le persone che lo amavano di più, tra la madre e la cugina, c'erano la moglie Neima e poi il reverendo William Blair, il nonno materno che lo portava tutte le domeniche a messa, e poi la cugina alla quale si è legato moltissimo, soprattutto dopo il 39, perché lui a 13 anni in rapida successione perde il padre, i nonni materni e uno zio. John Coltrane nasce nel 1926, lo stesso anno di Miles Davis. L'infanzia la trascorre in una modesta famiglia di lavoratori nel North Carolina. Il padre sarto, suona strumenti a corda, la madre lavora come domestica ma ha una passione per il pianoforte. Lui è ancora un ragazzino quando comincia a suonare il clarinetto nella banda del liceo e si dimostra subito molto talentuoso. 4 anni dopo la madre gli regala un sax contralto con qualche dollaro messo faticosamente da parte, e lui dedica tutto se stesso allo studio di questo strumento. Dal 47 comincia a suonare in vari gruppi di Philadelphia, viene ingaggiato anche dalla band di Joe Webb. Insomma, si sta ritagliando il suo spazio nella scena jazz locale, ed ecco ancora un ricordo della cugina a cui Coltrane più avanti dedicherà un famoso pezzo, Cousin Mary. He sat at the dining room table. Stava sempre al tavolo a esercitarsi e non distoglieva mai l'attenzione. Noi dovevamo muoverci intorno a lui. Vivevamo insieme con sua madre e mia madre, e da piccolo diceva sempre che una volta sposato non ci avrebbe più volute intorno. Doveva suonare e basta. Per Coltrane, quello col sax è un rapporto d'amore viscerale. Il sax sarà la sua compagnia per tutta la vita. Lui si esercita in continuazione con la musica dei miti della sua epoca, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, quelli che negli anni 50 stanno toccando i vertici della raffinatezza musicale. Per lui sono esempi nella musica, ahimè anche nella vita, e tra questi esempi c'è appunto il vizio dell'eroina, e l'eroina riempirà le sue giornate fin dagli inizi della carriera. Sonny Rollins è un altro colosso del jazz. Racconta di aver frequentato spesso Coltrane negli anni 50, e lì si usava la droga come se fosse alcol, non si dormiva mai e si viveva di eroina e di musica. Ci si chiudeva nei jazz club a suonare, e quando avevano finito ascoltavano quelli che suonavano dopo fino alle 4, alle 5 del mattino. Poi una sera, nel luglio del 55, c'è un evento che cambierà la vita di John per sempre. Squilla il telefono a casa Coltrane, la moglie Neyma, quella che John aveva sposato da qualche mese, risponde. Chiama il marito a gran voce. John sta suonando, chiuso in camera, è irritato per l'interruzione. Prende la cornetta in mano, ma il suo volto cambia espressione immediatamente, perché dall'altra parte del telefono c'è Miles Davis. Sta cercando il quinto uomo per comporre il suo quintetto e ha scelto proprio lui. Il falco e il gabbiano. Abbiamo lasciato il protagonista della nostra storia di oggi, John Coltrane, alle prese con la telefonata più importante della sua vita. Siamo nel 1955, Miles Davis gli ha proposto di unirsi a lui. E Coltrane ovviamente accetta questa offerta, va a New York per unirsi al resto della band. Oltre a Miles e John ci sono Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al basso e Philly Jones alla batteria. Miles Davis in realtà non si aspetta molto da Coltrane, è una specie di ultima spiaggia. Aveva altre prime scelte che avevano rifiutato, ma Coltrane sorprende tutti, compreso Miles Davis, che l'aveva visto suonare 3 anni prima. Sì, perché è migliorato molto dall'ultima volta, e Davis percepisce questo sound particolare, fuori dal comune, che si discosta dai modelli in voga per i sassofonisti di quel periodo, che si chiamavano Coleman Hawkins, che aveva una ritmica forte, impetuosa, Lester Young. Insomma, Coltrane comincia a seguire una strada personale mai sentita prima. Ripete i fraseggi, si lancia in sequenze ritmiche imprevedibili. Insomma, qualcosa da dare e da dire al mondo, qualcosa che nessun altro possiede. Coltrane variava sempre sui suoi pezzi preferiti. Poteva stare 45 minuti a suonare senza sosta lo stesso pezzo, se gli andava, quasi come fosse un flusso di coscienza. Ed era bravissimo nell'arte dell'improvvisazione. Questo poteva essere un problema per qualcun altro. I produttori, ad esempio, non sapevano mai quale versione avrebbero registrato, perché suonava per tutto il tempo le variazioni dalle quali era ossessionato. Coltrane passa in un istante dall'anonimato ai riflettori della scena jazzistica. È un fascio di luce puntato in faccia, che per uno come lui non è neanche troppo gradevole. Non è abituato a questa attenzione, che peraltro non va d'accordo col suo problema, che è l'eroina, e ormai è un problema sul quale lui non ha più controllo. La sua tossicodipendenza sta diventando pesante, però in questa fase ancora non lo sta ostacolando. I dischi di Davis vanno forte, e nel 57 arriva il primo album di Coltrane da solista. Si chiama Coltrane, è un album che raccoglie critiche discordanti, come tutte le opere di quelli che cambiano la storia. Non tutti capiscono lo stile personale di John, uno dei pochi che crede in lui fin dagli inizi è Bob Weinstock, che è il direttore della sua casa discografica, si chiama la Prestige Record, e lui, Weinstock, dice che sentendo Coltrane la prima volta ha pensato: ecco il nuovo Bird. Per Bird si intende Charlie Bird Parker, Charlie Parker, che era morto pochi anni prima, nel 55. Il 57 segna grandi cambiamenti per Coltrane, è l'anno di Roundabout Midnight, uno dei migliori prodotti della copiata Coltrane Davis. Martin Williams, un giornalista dell'epoca, descrive la solo principale come il suo solo più provocatorio. Ma è anche l'anno della caduta brusca, perché ormai l'eroina ha preso il sopravvento su John Coltrane. Miles Davis comincia a lamentarsi perché lo vede sul palco con gli abiti sgualciti, lo vede ciondolare, assente, e poi quando non riesce o non può bucarsi si ubriaca. E nel 57 c'è la notte che vi ho già descritto, la notte al Red Rooster, è la notte in cui lui tocca il fondo. Miles Davis non ha scelta, lo caccia dal quintetto. Coltrane torna a Filadelfia dalla famiglia, non ha più uno stipendio fisso, l'autostima è sotto i piedi. Queste sono le sue parole tratte dal libro A Love Supreme di Ashley Kahn. In quel periodo presi una decisione. Fu allora che smisi di bere e anche con quell'altra roba, e così riuscii a suonare meglio. Smettere con la droga comportò un generale miglioramento delle cose. Potevo suonare e pensare meglio. E questo è il vero colpo d'ala, un colpo d'ala importante. Uno scambio obbligato, il jazz al posto della droga, e Coltrane è cambiato davvero e riempie la sua vita non solo di musica, comincia un percorso di ricerca spirituale verso uno stile di vita, una filosofia, e all'insegna del vivi nel modo giusto, fai le cose giuste, suona nel modo giusto. È l'inizio di una rinascita spirituale che lo guiderà da qui in avanti nella vita, nel jazz, trova ispirazione in Thelonious Monk, un altro dei grandi di quella generazione, un pianista dall'approccio molto particolare, anche perché Monk è un altro che è disposto a suonare un unico pezzo per tutta una serata, è un perfezionista compulsivo. John impara molto da lui, ecco come Coltrane ricorda le giornate passate assieme a Monk. Andavo a casa sua e lo tiravo giù dal letto, lui si alzava, si sedeva al piano e cominciava a suonare. Io prendevo il sax e cercavo di capire cosa stesse suonando. E lui suonava in continuazione. Poi si fermava e mi mostrava le parti più difficili. E se mi trovava molto in difficoltà, tirava fuori i suoi spartiti e mi mostrava la musica. Ce l'aveva tutta scritta. Così io la leggevo e la imparavo. Poi, quando avevo capito il brano, mi lasciava da solo a fare pratica. Appena finivo di impararlo, lo chiamavo e suonavamo insieme. Certe volte capitava anche di fare un solo pezzo al giorno. Grazie alla guida di Thelonious Monk e grazie anche alla scoperta della fede, Coltrane torna in alto. E nel 59 l'Atlantic Records, affascinata dalle prestazioni di Coltrane al fianco di Monk, perché si stanno esibendo nei migliori jazz club di Filadelfia, offre un contratto che Coltrane firma al volo, entra in studio di registrazione. La Atlantic, rispetto all'etichetta precedente, alla Prestige, offre più libertà a John, orari flessibili, studio di registrazione a disposizione, un tecnico del suono che assiste personalmente Coltrane. Lui ha bisogno di questo, libertà di espressione e possibilità di sperimentare. Così il suo rapporto col sax diventa ancora più stretto, suona in ogni momento, fa pratica come fosse un principiante, suona di giorno, di notte, anche quando va in bagno, spesso si addormenta col sassofono sul letto. La Atlantic è il contesto ideale per John. Nel 60 registra Giant Steps, un disco che contiene pezzi come Neymar, Cousin Mary, Mr. PC, dedicato a Paul Chambers, tributi alle persone che gli sono state vicine nel suo periodo più buio. Giant Steps va dritto nella classifica dei migliori della storia del jazz, anche se la concorrenza è Kind of Blue di Miles Davis, che è uscito nello stesso anno, Amici, Nemici, due album che apriranno la strada al free jazz. jazz, lo stile nel quale ogni strumento è libero di improvvisare. Coltrane ormai ha conquistato la critica, che fino a quel momento era stata un po' dubbiosa nei suoi confronti. Miles Davis, forse per scusarsi di averlo cacciato, gli regala un sax soprano. È un momento d'oro. John decide di creare una band tutta sua. Inizia così nel 1960 la storia di uno dei quartetti jazz più influenti di sempre. Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di un mostro sacro del jazz, John Coltrane. E abbiamo raccontato della sua militanza in band come quella di Dizzy Gillespie, di Miles Davis, della coppia con Thelonious Monk e soprattutto di una battaglia vinta, la battaglia con l'eroina. E lui ce la fa, decide di rimettersi in gioco e di mettersi in proprio, e nel 1960 lui è in giro a fare audizioni, sta cercando i musicisti giusti, quelli che siano in grado di supportare i suoi lunghi assoli e che possano aiutarlo nella sua ricerca, quella del suono perfetto. Il primo reclutato è McCoy Tyner, è un pianista di Filadelfia, è giovane ma spregiudicato, ha voglia di esplorare le tendenze più recenti del jazz, ha uno stile fatto di improvvisazione e di piena libertà espressiva, è uno stile che interessa Coltrane. Poi arriva il batterista, si chiama Elvin Jones, definito da Coltrane un vero e proprio metronomo. Lui non aveva raccolto buone critiche perché aveva uno stile diverso dagli standard delle... aveva libertà ritmiche che si prendeva durante i live, forse è proprio questo che convince Coltrane. E poi arriva il bassista, il contrabbassista Jimmy Garrison, e la storia del suo reclutamento la racconta proprio lui. Suonavo con Ornette Coleman e una sera entrò al Five Spot John Coltrane. Avevo deciso di lasciare Coleman esclusivamente per motivi economici. Coltrane mi chiese di andare a suonare con lui al Village Vanguard e fu lì che incidemmo Chasing Train. Alla fine Coltrane mi disse: amico, se per caso decidi di lasciare Hornet, ti prego, vieni con me. Il quartetto è al completo, comincia un rapporto molto intenso tra i componenti della band, un rapporto fatto di lavoro, fatica, ma anche di grandi gioie e di soddisfazioni. My Favorite Things, il primo disco, è un capolavoro, è un disco che si rivolge con intensità particolare all'America nera, politica e cultura vengono legati insieme da una crescente ondata di orgoglio razziale. È un disco che ascoltano anche i bianchi, peraltro Patti Smith ricorda la album come uno dei suoi preferiti. L'anno dopo il quartetto parte per il suo primo tour, lo racconta anche lo storico della musica Ashley Kahn nel libro A Love Supreme. By the early 1960s, Coltrane had assembled... Nel 1960, con la formazione del quartetto, comincia un tour. Tyner al piano, Garrison al basso ed Elvin Jones alla batteria. Guidava Coltrane perché aveva passione per la guida, ma soprattutto aveva paura dell'aereo. Presero un van e fecero coast to coast per 6 settimane e altre 6 settimane a New York. In questo clima di stress, egli cominciò con uno dei suoi grandi vizi, mangiare, che serviva a confortarlo. Mangiava talmente tante caramelle che a un certo punto i tasti del sax erano intasati di zucchero. His sax keys became clogged up with sugar. Caramelle, brains and eggs, cervello di maiale e uova strapazzate con l'aggiunta di cipolla, buono, questo mi piace. Se c'è un posto che vende caramelle o brains and eggs, il van si ferma anche a costo di ritardare il concerto. Mentre Coltrane e i suoi mangiano e suonano, i dischi vanno tantissimo. Bob Teal, il dirigente della Atlantic Records, sta festeggiando a New York. John Coltrane con My Favorite Things raggiunge una popolarità incredibile, il pubblico apprezza uno stile così particolare, ha successo commerciale, eh sì, perché una volta il pubblico comprava anche i dischi jazz. Questo successo gli permette di avere il coltello dalla parte del manico, sia nel rapporto con la casa discografica, ma anche nei confronti della band. McCoy Tyner, il pianista, racconta così la dinamica all'interno del quartetto. All'inizio ci chiedevamo sempre con stupore se quello che ci spiegava fosse davvero quello che voleva fare, e gli davamo sempre molta attenzione. alla fine funzionava ogni volta, ogni cosa che faceva, e il risultato era sempre ciò che aveva in mente fin dall'inizio. Non scendeva mai a compromessi. Era un po' come il mio maestro. Dopo il tour, Coltrane si prende un momento di pausa perché è un momento difficile. Lascia la prima moglie, Neima, e inizia a frequentare Alice. E poi ci sono problemi fisici dovuti a questo punto alla sua alimentazione sregolata. Purtroppo io ho conosciuto poche persone uscite dall'eroina che poi non abbiano abbinato un difetto ulteriore, una sregolatezza successiva, alcol, cibo, cose di questo genere. Insomma, anche Coltrane ci casca, è vicino all'esaurimento nervoso. Alice è incinta, lui decide di tornare a Filadelfia per stare con la nuova compagna e con il neonato John Coltrane Jr. E quello che doveva essere un riposante ritorno a casa diventa l'occasione per stare 24 ore su 24 col suo sax. Per 5 giorni rimane chiuso al piano superiore della sua villetta, armato di carta, penna e sassofono. Scende ogni tanto solo per mangiare qualcosa. Al quinto giorno riappare quasi come Mosè che scende dalla montagna. Coltrane ha un'espressione soddisfatta e dice: è la prima volta che ho l'ispirazione per tutta la musica che voglio incidere su un disco, e aggiunge: è la prima volta che ho tutto, ma proprio tutto pronto. Così nasce A Love Supreme, uno dei più grandi capolavori della storia del jazz. L'album esce per la Impulse Record, registrato nel New Jersey, nello studio di Rudy Van Gelder. È lo stesso Van Gelder a raccontare la modalità di realizzazione di Love Supreme, che avviene, al contrario degli altri dischi, in un'unica seduta di sole 4 ore. Nel pomeriggio di quel 9 dicembre sono presenti in studio John Coltrane col suo quartetto e Rudy Van Gelder, nessun altro. Sono le 8 di sera, Van Gelder abbassa le luci, e lo fa sempre lui per ricreare l'atmosfera del live all'interno dello studio. Elvin Jones colpisce il gong e attacca il sax tenore di John Coltrane. Ha inizio la realizzazione di A Love Supreme, un disco tra i più importanti della storia del jazz, il più premiato di Coltrane. Tutto va a gonfie vele per lui, ha raggiunto le vette della scena jazz mondiale, ha una moglie, un bambino nato da poco, tutti stanno riconoscendo il suo genio musicale, ma come spesso accade, il destino presenta il conto improvvisamente. John da tempo sente dolori insistenti alla pancia e scopre di avere un tumore al fegato in stato avanzato. E la scoperta della malattia però non lo butta a terra, reagisce, continua a vivere nello stesso modo e sostenuto dalla sua spiritualità, una spiritualità che cresce assieme alla sua musica. Love Supreme sembra un viaggio verso il divino, viene idealizzato dal pubblico proprio in questo senso. Lui continua a suonare in giro per il mondo, dal Giappone fino magari alla modesta sala della scuola di St. Gregory a Brooklyn, in un concerto che ha lo scopo di raccogliere soldi per la costruzione di un parco giochi. Sentiamo Bob Thiel, dirigente dell'Atlantic Records. L'idea di raggiungere nuovi ascoltatori, di suonare in un posto dove il prezzo del biglietto e i limiti d'età non limitassero l'afflusso del pubblico, divenne per Coltrane, in quell'ultimo anno di vita, una preoccupazione primaria. Basti pensare che prima di morire aveva pensato di acquistare un loft al Greenwich Village, dove la gente potesse venire ad ascoltare la sua musica senza pagare il biglietto d'ingresso. Purtroppo quel loft al Greenwich Village John Coltrane non lo comprerà mai. Il 17 luglio del 1967 muore in ospedale, dove è stato ricoverato per il peggioramento della sua malattia. Nella primavera di quell'anno lui aveva cominciato a arrendersi al tumore al fegato e si era rifiutato di curarlo perché aveva scelto di aspettare la fine, come se stesse aspettando una grande luce finale. E queste sono le parole del figlio di Cal Massey, il trombettista, un grande amico di John, riguardo a quella terribile giornata. Al piano di sotto c'era un gran trambusto, così scesi. Non avevo mai visto mio padre tanto commosso. Continuava a ripetere: mio fratello John. Lì per lì non riuscii a capire, ma poi mia madre ci chiamò di nuovo di sopra e ci spiegò che cosa era successo. Ricordo che per tutto il giorno mio padre ascoltò A Love Supreme e altri dischi. Ascoltò John tutto il giorno. Il funerale di John Coltrane si tiene 4 giorni più tardi nella chiesa luterana di St. Peter's nel centro di Manhattan. Alla funzione Assistono circa 1000 persone. Al posto dell'elogio funebre, l'amico Cal Massey legge A Love Supreme, una poesia scritta da John assieme al disco. Il reverendo John Gensel conclude la cerimonia con una benedizione che cita un passo della poesia. Parole che sono rimaste, che rimarranno nella memoria di molte persone, note, melodie che mantengono ancora oggi vivo il ricordo di un uomo che in 40 anni ha prodotto non solo musica, ma una vera e propria filosofia di vita, un sentimento comune. Pensate che nel 71, a pochi anni dalla morte, il vescovo Franz King ha fondato la chiesa africana ortodossa San John Coltrane, e il culto è amministrato attraverso una band capitanata da lui stesso, da Franz King, che è un buon sassofonista. E a messa, invece delle solite gli strumenti o le chitarre che accompagnano i cori da chiesa, sono eseguiti i più grandi brani di John Coltrane. Una breve vita piena di colpi d'ala, una vittoria con l'eroina e poi una sconfitta, ma una sconfitta capita a tutti almeno una volta, la sconfitta con un tumore. Però una vita che ha cambiato la storia del jazz, è uno di quei musicisti per i quali puoi dire c'è stato un prima e un dopo John Coltrane. Se volete mandare dei commenti, segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina e venite sui nostri social, sui miei social, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Giovanni Savarese, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.